dovete incidere alla base del cranio. Portando via abbastanza cute da poterci infilare le dita. E quindi, afferrando saldamente con tutte e due le mani, portate via la pelle che si trova sulla parte superiore. È quasi come sbucciare una grossa arancia. Ora che il cranio è completamente visibile, voi prendete questo segaossa e tagliate lungo tutto il perimetro. Ed ecco a voi, signore e signori, il cervello umano. Una volta che il sistema cerebrale di un individuo, sto parlando del sistema attivante periferico, regolazione cardiaca, centri respiratori, una volta cessate queste attività, il cervello sopravvive ancora da un minimo di 6 a un massimo di 12 minuti. Da 6 a 12 minuti. Finché la morte cerebrale porta il processo ad una irreversibile conclusione. Noi tutti vorremmo conservare le nostre personalità in qualche idilliaco oltretutto. Speriamo tutti che accada qualche miracolo. Cerchiamo un siero, una pozione, una pillola. Però forse ci vuole il desiderio. Ci vuole il desiderio, un ossessivo desiderio.